Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Il dubbio che assale ognuno che desideri rendere più efficiente la propria abitazione oppure anche il proprio stabilimento è: da dove comincio? La domanda è tutt'altro che filosofica, si tratta di stabilire una gerarchia di interventi che vanno dal più al meno conveniente in termini di costi-benefici, per poi, individuate le priorità, intervenire con delle azioni concrete. Il primo passo in questi casi non può quindi che essere l'individuazione dei punti deboli, dei consumi e delle perdite. In alcuni casi si tratta di un'operazione relativamente agevole, ma in molti altri non lo è per nulla. E certamente il caso di tutti quegli edifici, magari costruiti in tempi piuttosto remoti, di cui si sa poco o nulla di cosa ci sia, per esempio, dentro le pareti. Ecco allora che ci viene in aiuto una tecnologia non nuova, ma che sta trovando sempre più numerose applicazioni. Ne parliamo con l'ingegner Carosena Meola, esperta di termografia nell'infrarosso della Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli. Buonasera, Meola. Buonasera. Dunque, Meola, intanto le chiedo di spiegarci il principio su cui si basa la termografia, che cosa sono gli infrarossi, che cosa li emette? Allora, per dire in parole semplici che cos'è la termografia all'infrarosso, possiamo parlare di una metodologia che consente, utilizzando una termocamera, di ottenere una mappa di temperatura dell'oggetto inquadrato. Mi spiego meglio: ogni oggetto, in base alla propria temperatura, emette dell'energia termica. Questa energia viene captata dalla termocamera e poi trasformata in temperatura. Che cos'è la termocamera? La termocamera è uno strumento un po' analogo alla telecamera. La telecamera che cosa ci fornisce? Ci fornisce un'immagine nel visibile sulla base della luce riflessa. È chiaro. Mentre la termocamera mi fornisce l'energia emessa dall'oggetto, quindi una mappa di temperatura, e questo è possibile ottenerlo non in presenza di luce. Perfetto, e quindi quello che si tiene è una specie di fotografia in cui quello che si vede appunto non è la luce riflessa dal sole, ma è la temperatura di ogni parte, di ogni superficiale, singolo, per esempio, di un edificio. Punto. Perfetto, sì, perfetto. Sì, sì, ecco, sì. Quindi è chiaro che laddove la temperatura di una casa vista da fuori è più alta rispetto ad altri punti, vuol dire che da lì esce più calore, sì, e quindi si individua la perdita. Ecco, quali sono quindi le applicazioni di questa termografia? Una l'abbiamo già accennata, ma in realtà ce ne sono molte. Allora, nel campo dell'edilizia la termocamera può essere utilizzata per andare a valutare la tenuta dell'involucro dell'edificio, la tenuta degli infissi, quindi ai fini della certificazione energetica, ma può essere anche utilizzata per andare a individuare le strutture nascoste, quindi acquisire informazioni sugli elementi costruttivi, tutto ciò che è sottointono, che quindi visivamente non si vede. Che altrimenti richiede un'analisi distruttiva nel senso, certo, vero e proprio del termine. Bisogna martellare, bucare, finché non si incontra, insomma, una specie di carotaggio bisognerebbe fare in caso contrario. Ecco, mi corregga se sbaglio, di fatto questo è l'unico metodo di misura diretta delle perdite termiche di un edificio, perché tutti gli altri metodi sono basati su delle supposizioni, su calcoli, su misure che però non sono misure dirette di perdita. Qui invece abbiamo una vera e propria fotografia delle perdite dell'edificio. Eh sì, invece con la termografia io cosa faccio? Mi basta mettere a fuoco, inquadrare la scena che mi interessa e poi acquisisco questa immagine che mi fornisce le informazioni. Ecco, abbiamo detto che è estremamente interessante questo tipo di tecnica, per esempio laddove si voglia capire dove sono situate le perdite in un edificio storico, laddove non si hanno informazioni sull'edificio. Però ci sono anche altri casi probabilmente nei quali comunque vale la pena di utilizzare questa tecnica, anche quando l'edificio è nuovo magari. Sì, allora, quali sono le tipiche applicazioni? Uno è andare a verificare a fine costruzione se tutto è stato effettuata a regola d'arte, quindi andare a vedere se l'involucro è attenuta, controllare gli infissi se sono attenuta, poi andare a verificare le tubazioni, la posizione delle tubazioni, quindi se non ci siano perdite nelle tubazioni di acqua calda, di acqua fredda. Si individuano quindi anche le perdite d'acqua, questo è molto interessante, certo, perché certo, l'alternativa certo lì è veramente spaccare tutto. Certo, certo, ma difatti basta con una termocamera andare a fare un controllo in bagno per individuare la perdita e non smantellare l'intero bagno. Ecco, ottimo suggerimento. Eh sì. Poi, ritornando sempre all'edificio, che cos'altro possiamo vedere? Possiamo andare a controllare l'edificio in fase di restauro. quindi fare un controllo prima del restauro per acquisire elementi utili ai fini del restauro stesso, quindi andare a individuare dove sono le fessurazioni, quindi avere informazioni sul quadro fessurativo, individuare le fessurazioni e vedere anche come si propagano in profondità queste fessurazioni. Benissimo, dobbiamo chiudere. A chi mi posso rivolgere se voglio fare una termografia a casa mia e più o meno qual è il costo di un'operazione di questo genere? Allora, a chi rivolgersi? Si può operare in due modi, fare una ricerca su internet o ci si può rivolgere a chi vende termocamere. Però bisogna anche stare attenti sulla, diciamo, serietà dell'operatore, quindi converrebbe magari richiedere anche un curriculum, vedere se l'operatore è certificato o meno, quindi la sua esperienza nel settore. E quindi lei mi chiedeva poi anche dei costi. E possiamo andare dal semplice individuare una perdita di acqua in un bagno, che può essere intorno alle 500 euro, oppure salire. Va bene, grazie mille, ingegner Meola. Grazie a lei. Vale forse la pena di segnalare, prima di lasciarci, che la termografia può essere applicata anche per monitorare il funzionamento di pompe, motori e quadri elettrici nell'industria e individuare, per esempio, quelli difettosi. Mr. Kilowatt torna domani, parleremo del motore Stirling, una tecnologia che ha 200 anni ma che sembra pronta a una nuova rinascita. Buona serata.